caught in a daze, and she was rid of me. She swore that she would be all mine, love me to the end. But when I whispered in her ear, I lost another friend. Oh, good times, bad times, you know I've had my share. When the woman left home for a blind man, but I still don't see it again. Un altro bell'arrivo in limousine, con la guida a destra, visto che si tratta di band inglese, però i grandissimi Led Zeppelin di Good Times, Bad Times. Allora un saluto a Chuck Bird e un saluto anche a Max De Rio che mi hanno preceduti. Siete all'ascolto di Rock FM, la voce di Rock Family. La voce che sentite invece è quella del DJ Edo Rossi, che come tutti i giorni vi terrà compagnia in un modo un po' antico, come si dice, no? Dalle 17 alle 19. In realtà solo dal martedì al venerdì, però il concetto è quello. Tra poco vi ricorderò i contatti per ovviamente dare il via all'interazione. Ci saranno i Trisdassi, ci saranno ovviamente un sacco di sorprese. Non so se arriveremo ad avere le sorprese di ieri quando insomma parlavamo di Brian May, però insomma magari qualcosa del genere, insomma. Questi sono i Midnight Oil, questo è Blue Sky Mine. Up and broken. My life that is lived is no more than a token. You strike the flint upon the stone and tell me why. If I yell at the night, there's a reply of blue silence. The screen is no comfort, I can't speak my sentence. They blew the lights at heaven's gate, and I don't know why. But if I work all day, the shareholders, they're crossing their fingers, they pay the truth maker. The balance sheet is breaking up the sky. So I'm caught at the junction, still waiting for medicine. The sweat of my brow keeps on feeding the engine. Hope the problems in my pocket can keep me for another night. If the sugar refining company won't save me, who's gonna save me? Who's gonna save me? Who's gonna save me? But if I work all day on the blue sky mine, there'll be food on the table tonight. And if I walk up and down on the blue sky mine, they'll be paying your pockets. I Midnight Oil di Blue Sky Mine. Vi ricordo quindi i contatti 335-100-7777, la linea SMS, oppure edo@rockfamily.it. Per fortuna l'indirizzo email si è rimesso a funzionare a dovere, non come ieri che ho dovuto utilizzare il sito di Rock Family, però insomma è mica stato un problema, no? Ormai è tutto in famiglia. Dicevo, parte un Tris Dassi con Guns N' Roses, Electric Light Orchestra e Clash. Your living room, cashing in the Bill of Rights. Human armies. so hard now, and please don't take it so bad. I'll still be thinking of you and the times we had, baby. And don't you cry tonight. Don't you cry tonight. Questi sono i Guns N' Roses, pare tra l'altro che, come noto, Slash abbia un po' ammorbidito i termini, così si leggeva su Rock Family e naturalmente anche sui vari siti dei fan dei Guns N' Roses, per quanto riguarda il discorso della reunion, che sembra un discorso assolutamente aperto e in procinto di esistere. Staremo a vedere cosa succederà, soprattutto in vista della pubblicazione di Chinese Democracy, disco all'interno del quale dei Guns N' Roses non c'è praticamente nessuno a parte Axl. Staremo a vedere. Come back. And like the vines and the bees and the trees, it's a show of my flesh. I'll speak to the masses, to the media. And if you got any good ahead of me, you can say it with cash. Cause I've got the pressure, you got the cash, so baby, we should get along fine. Don't give me all your money, cause I know you think I'm funny. Catch me with a laugh. One of my good ones. Well, watch a few back and balls, and we all know it's good and fun. Skateboards, I've almost made them respectable. You see, I can't.